2024 di Enrico Pagliarini. Ci siamo anche questa settimana, benvenuti o bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Lo scorso fine settimana Volkswagen ha annunciato ufficialmente, già qualcosa si sapeva dai giorni finali della settimana scorsa, ha annunciato un piano di ristrutturazione piuttosto ingente, il piano di ristrutturazione più importante della sua storia, 30.000 posti di lavoro in meno entro il 2020. Allora, ufficialmente per superare la crisi del Dieselgate, ma questa è solamente una scusa. Sì, sicuramente il Dieselgate, il problema che Volkswagen ha avuto negli Stati Uniti barando sulle emissioni dei motori diesel, ha sicuramente avuto un impatto, lo avrà nei prossimi anni per i soldi che deve pagare in termini di multe o risarcimenti, ma i motivi principali sono legati alla trasformazione dell'industria dell'auto e legati a temi di cui parliamo spesso a 2024: automazione sempre più spinta e sofisticata, grazie a robot che cominciano ad essere intelligenti sfruttando il machine learning di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e quindi fabbriche sempre più automatizzate. E poi una grande rivoluzione nei prossimi anni del mondo dell'auto, ci metterà un po' a prendere piede e diventare popolare, però l'arrivo delle auto elettriche è ormai fa parte dei programmi di sviluppo di quasi tutte le aziende automobilistiche. Non passa settimana che un'azienda automobilistica faccia un annuncio in questa direzione. Però per fare un'auto elettrica servono molti meno pezzi proprio per costruirla, e quindi un processo produttivo molto più semplice. Insomma, l'auto elettrica è più semplice rispetto all'auto con il motore a scoppio. E poi, quindi, ci sono delle conseguenze dirette proprio nelle fabbriche. Poi ci sono conseguenze anche nell'indotto e nel post vendita. Uno potrebbe dire, vabbè, questo però c'entra poco con la fabbrica in sé. Però anche questa è una conseguenza. Le auto elettriche si guastano di meno, quindi serviranno molte meno officine, comunque molti meno meccanici, e anche la riparazione è più semplice. Tutti i problemi che dovranno essere affrontati, quindi, di un'industria che deve ripensarsi, e questo ovviamente ha conseguenze sui posti di lavoro. A proposito di lavoro, perché la diffusione della tecnologia ha impatto da una parte negativo ma dall'altra positivo, poi c'è un grandissimo dibattito sul futuro, cioè se la bilancia pende dalla parte positiva, quindi dalla parte della creazione dei posti di lavoro, da quella negativa. E torneremo anche su questo dibattito, ma dicevo, a proposito di posti di lavoro, una notizia interessante di questa settimana riguarda il sistema informativo Excelsior di Unioncamere del Ministero del Lavoro, che conferma che i laureati in ingegneria elettronica e informatica sono fra quelli più richiesti. In generale, gli studi ad indirizzo tecnico-scientifico offrono maggiori possibilità di lavoro. Poi questo non varrà per tutti al 100%, però anche questi dati ci dicono che le aziende e le industrie hanno bisogno di tecnici possibilmente laureati in alcune discipline che riguardano il nostro futuro. Quindi tenetene conto anche per far studiare i vostri figli. Questo è 2024, adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il mondo del turismo online, comunque il mondo dei viaggi online. La cinese SeaTrip.com, la più grande agenzia di viaggio online della Cina, ha acquistato la scozzese Skyscanner, uno dei siti di comparazione viaggi più noti al mondo. Probabilmente l'altro tra i più noti nel mondo è Kayak. Allora, il prezzo pagato da SeaTrip per Skyscanner è di 1,7 miliardi di dollari. Ricordiamo che SeaTrip è una società quotata al Nasdaq e ha un fatturato di 50 miliardi di euro. Digital News. Facebook è stata autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda, e quindi poi di conseguenza autorizzata in tutta Europa, ad operare come sistema di pagamento, cioè è una emittente di moneta elettronica. In particolar modo è stata autorizzata una società specializzata nei pagamenti che fa parte del gruppo Facebook. Per il momento sono permessi pagamenti peer-to-peer attraverso il sistema Messenger, quindi praticamente si possono spostare soldi da un utente all'altro e si possono anche fare donazioni. Però da qui a diventare sistema di pagamento to-core passa veramente molto poco, e pensate, quante persone sono connesse già al Messenger di Facebook. Il Giappone ha annunciato un progetto per costruire il supercomputer più potente al mondo e riprendersi una leadership che negli ultimi anni è di Stati Uniti e Cina. Il governo investirà in questo progetto 173 milioni di dollari. Ricorderete, la settimana scorsa abbiamo parlato di supercomputer e abbiamo detto quanto sia strategico per un paese, per essere più competitivo, per far diventare più competitive le proprie imprese, avere sistemi di supercalcolo molto potenti. Digital News. Dopo aver annunciato un investimento da 8 miliardi di dollari per acquistare l'americana Arman, Samsung anche questa settimana fa notizia per un'acquisizione. Dunque, questa volta l'investimento è più contenuto, si tratta di 70 milioni di dollari per mettere le mani su un'azienda che si chiama QD Vision, sulla tecnologia di questa azienda che lavora sul Quantum Dots, che è una tecnologia che serve per colorare i micro LED che arriveranno sui televisori dei prossimi anni. Quindi non saranno più televisori LCD retroilluminati a LED come accade oggi, ma micro LED che emettono direttamente luce, quindi self-emitting, una tecnologia in concorrenza con gli OLED su cui Samsung per ora ha deciso di non puntare. Adesso parliamo di automobili. A conferma che la vendita di auto online è un business interessante, soprattutto per il segmento dell'usato, la società italiana Goodbye Auto ha annunciato di aver raccolto 1 milione di euro di finanziamenti dopo 1,5 milioni raccolto 6 mesi fa. La società è operativa da un anno e permette di acquistare auto usate online. Si chiama Goodbye Auto, ma Goodbye è scritto non come il saluto, goodbye, arrivederci, ma Goodbye come acquistare, quindi Goodbye Auto. Aggiungiamo un nuovo smartphone nella lista di nuovi prodotti senza jack audio, che alcuni ritengono sarà ormai la strada del futuro dopo l'abbandono da parte di Apple sui nuovi iPhone 7 del jack audio. Allora, HTC ha annunciato l'arrivo anche in Italia del nuovo 10 Evo, che è il primo HTC con auricolari solo USB tipo C. Un'ultima notizia riguarda il mondo della telefonia mobile, che ha quasi dell'incredibile, ma in realtà se uno segue il mercato non più di tanto. Allora, secondo Strategy Analytics, che è una delle principali società che si occupano di analisi e di ricerca nel settore della telefonia mobile, nel terzo trimestre Apple ha incassato il 91% dei profitti realizzati nel mercato degli smartphone. Quindi su 10 dollari incassati in tutto il mercato, 9,1 sono di Apple. In modo particolare, dei 9,4 miliardi di dollari di fatturato del mercato, di tutto il mercato degli smartphone, quindi anche con Android, Apple ne ha incassati 8,5 miliardi, lasciando agli altri solo pochissimo, cioè proprio le briciole. Ad esempio, Huawei, Vivo e Oppo, che sono tre produttori cinesi, hanno incassato poco più del 2% di tutti i soldi che arrivano nel mercato, tutti gli altri si dividono il rimanente 2,2%, quindi praticamente le marginalità sono veramente molto basse. Dunque, a proposito di questa ultima notizia, quella che abbiamo dato sul mercato degli smartphone, cioè sui soldi incassati, sugli utili, poi i margini che si fanno sugli smartphone, praticamente si guadagnano soldi solo nella parte alta del mercato, dove gli smartphone costano 5, 6, 700, 800 o più euro o dollari. E in questa parte del mercato la parte preponderante è fatta dagli iPhone, e quindi è lì che si fanno i margini, e i margini li fa praticamente solo Apple. Nella parte medio-bassa i margini sono molto ridotti, c'è veramente una concorrenza incredibile, ma parliamo di margini dell'ordine di pochi dollari a pezzo. Per Huawei, Huawei, secondo i calcoli che sono stati fatti, dovrebbe avere un margine di circa, mediamente, di 7 dollari per smartphone. Pensate, ci sono addirittura produttori che in pratica non guadagnano nulla. E questo è confermato da un'intervista che Ugo Barra, che è vicepresidente mondiale di Xiaomi, che è una delle più grandi società di smartphone cinese, in un'intervista alla Reuters, Ugo Barra ha dichiarato che l'azienda non guadagna nulla dalla vendita degli smartphone. E quindi giustamente gli è stato fatto notare, domandato, ma perché fate gli smartphone? E lui dice perché puntiamo a guadagnare da altro, da servizi, dalla smart home. Alcuni ritengono che ci siano dei produttori che puntino solo alle quote di mercato per far girare il proprio nome, cioè che la telefonia mobile serva poi da trampolino di lancio per altri mercati e altri servizi. Vabbè, contenti loro, contenti noi. Mondo è strano, eh? Dunque, c'è una tendenza nel mondo delle aziende che vendono tecnologia, quella di creare centri per far provare la tecnologia. Di questo parliamo tra poco, adesso parliamo invece di sensori e di sport. In realtà tra poco parleremo di tutti gli ingredienti di cui parliamo spesso a 2024 e di cui si parla in questi mesi, in questi anni nel mondo della tecnologia. Internet degli oggetti, la Internet of Things, big data, sensori, i dati raccolti dai sensori, come si dice sensor data, analytics, software capaci di analizzare questi dati per prendere poi decisioni basate su questi dati, come si dice data driven decision, cioè decisioni appunto basate sui numeri. Però ne parliamo nel mondo dello sport. Andrea Rinaldo è il fondatore e amministratore delegato di X-Matrix, che realizza un sistema per tracciare ed analizzare i movimenti dei nuotatori per prendere anche delle decisioni. Sì, partiamo dalla novità, da quella che è il nostro punto caratteristico, che è veramente unico ad oggi, ossia il posizionamento sul retro della testa. Non è un activity tracker derivato da altri sport, che quindi è stato posizionato sul polso come un orologio, un braccialetto o cose simili. Abbiamo deciso di studiare come gli atleti nuotano, capire esattamente quali sono i loro gesti, quali sono le loro necessità, e per questo l'abbiamo posizionato sul retro della testa. Massima ergonomia, massimo comfort. Oltre a questo, il retro della testa è la posizione privilegiata per andare ad acquisire più dati, avere dati più puliti, più precisi, e quindi fare una serie di analisi che è impossibile fare posizionando i sensori, quindi i dispositivi, in qualsiasi altra parte del corpo. Quindi questo è il nostro punto di forza. Entrando nello specifico di che cosa facciamo, siamo un activity tracker, questi paroloni wearable device per lo sport, studiato appositamente per uno sport che è il nuoto. Il nuoto è uno sport che aveva rispetto ad altri delle necessità ancora insoddisfatte. Non esistevano dispositivi in grado di monitorare le prestazioni degli atleti durante l'allenamento e quindi indicargli dove migliorare, cosa fare per migliorarsi. Noi andiamo a recuperare tutti i dati biomeccanici dell'allenamento: numero di vasche, tempo per vasca, numero di bracciate, lo stile che si sta nuotando, le pause, ma in più andiamo ad aggregare questi dati in indici di qualità, la qualità della nuotata, l'efficienza della bracciata, il tempo di virata, quindi non solo dati quantitativi ma anche parametri qualitativi. Raccontiamo come è fatto il prodotto. Stiamo parlando di una scatoletta, una 3x4 centimetri, una cosa del genere, molto leggero, che uno posiziona dietro alla testa attaccandolo al laccio degli occhialini. Dentro questa scatoletta ci sono più sensori, giusto? Cioè, noi lo chiamiamo sensore, in realtà è una somma di sensori. Sì, esattamente. Il dispositivo si affranca sul retro della testa attaccandolo agli occhialini. All'interno, il cuore pulsante, sono i cosiddetti sensori inerziali, ossia accelerometro, giroscopio e magnetometro, ognuno tre assi, e quindi tre tipologie di sensori differenti che vanno a recuperare le accelerazioni, le velocità angolari, lineari della testa dell'atleta in questo caso, combinandoli insieme e quindi andando a rilevare questi eventi. La cosa, dal mio punto di vista, incredibile, tu che sei un ingegnere e voi che siete tutti tecnici probabilmente non vi stupite ormai più, voi riuscite dalla testa a capire addirittura se uno sta nuotando a stile libero o a rana, dorso, eccetera. Sì, questa qua è stata la parte più complicata, diciamo, ossia prendere questo flusso ininterrotto di dati e provare a dargli una forma, dargli un significato. È diciamo il nostro segreto, quello in cui in questi 2 anni ci siamo riusciti a specializzare ad essere molto bravi. È molto difficile, chiaramente, però il nuoto è uno sport fatto da gesti che sono tutto sommato ripetitivi, e quindi bisogna veramente guardare da lontano questi dati, provare a sovrapporre ai grafici che si vedono sui dati la figura di un nuotatore che sta nuotando, e da lì, insomma, la bellezza dell'ingegnere che riesce a fare miracoli dai numeri. Certo, stiamo parlando di algoritmi, e quando tu dici tanti dati, quanti dati? All'incirca è come se per ogni secondo di allenamento noi avessimo un numero variabile da 240 a 3600 immagini, 3600 fotografie per ogni secondo di allenamento. Considerando un allenamento che può durare un'ora, 2 ore, proviamo ad immaginare quante fotografie abbiamo a disposizione. Ecco, è come andare a risolvere un enigma poliziesco avendo questo numero sterminato di fotografie. Alcune sono inutili, sono quello che in termini ingegneristici si chiama rumore e quindi va eliminato, però altre sono identificative per capire che cosa sta succedendo. Ecco, noi dobbiamo trovare queste fotografie estremamente caratteristiche e specifiche, tenere solo queste e da qui andare a ricostruire tutto quello che è successo, la scena del crimine. Certo, quelle che tu chiami fotografie ovviamente sono dati di accelerazione. Esatto. Io mi sono piegato su un lato e su un altro, e siete precisi al punto? A seconda delle metriche che noi andiamo a considerare, siamo per esempio nella rilevazione dello stile, noi arriviamo ad una precisione che è il 99,8%. Su atleti di differente livello, quindi quelli che più bravi, gli atleti che vanno alle Olimpiadi, che vincono le medaglie alle Olimpiadi, ad atleti che invece vanno in piscina una volta alla settimana. Da un punto di vista di precisione sul tempo, chiaramente più l'atleta è bravo a fare la virata, quindi a nuotare in un certo modo, più il nostro livello di precisione aumenta, ma lì la nostra variazione all'interno della vasca è di circa 0,2 secondi per ogni vasca. Quindi comunque livelli di precisione estremamente validi e affidabili, tanto che tanti allenatori di vertice, con tanti atleti che vanno a vincere le medaglie alle Olimpiadi, già utilizzano la nostra tecnologia. In alternativa, che cosa si adopera oggi? O fino a pochi, voi vendete da qualche mese, sì. Prima che cosa si faceva? Cioè gli stessi risultati con cosa si facevano? Beh, il mondo del nuoto da questo punto di vista era un mondo che è rimasto tecnologicamente molto arretrato. Le squadre, le federazioni più ricche, federazione americana, olandese, lavorano molto con l'analisi video, che è un sistema estremamente costoso, che richiede delle infrastrutture anche abbastanza importanti e tanti tecnici che lavorano nel background. I risultati sono eccezionali, ma non sono calabili nella realtà di tutti i giorni, nell'atleta individuale che vuole andare per conto suo. Quindi ad oggi non esisteva un'alternativa. Se noi pensiamo al mondo della corsa, 15 anni fa tutti correvano, ma molti correvano, ma nessuno aveva orologi per misurare le prestazioni. Adesso se uno corre, se esce di casa e l'orologio è scarico, non va nemmeno a correre, dice no, lo ricarico e poi vado a correre. Il nuoto sta vivendo con qualche anno di ritardo quello che nella corsa e nel ciclismo è successo qualche anno fa, quindi noi contiamo che anche nel nuoto fra qualche anno si vivrà la situazione in cui gli atleti, gli allenatori hanno necessità di un dispositivo come questo per supportarli nel loro lavoro di tutti i giorni o nel loro svago, chiaramente, di tutti i giorni. Infatti adesso ti domando a cosa servono questi dati, perché stiamo parlando di, in definitiva, poi del grande tema del big data, quindi la capacità, grazie a sensori, di raccogliere tanti dati, riuscire poi a elaborare questi dati per ottenere delle informazioni. Poi queste informazioni a che cosa servono, per farci che cosa? E qui si entra nello studio del nostro utilizzatore. Il nostro cliente allenatore di nuoto ha la necessità di raccogliere tutti questi dati, uno per sapere esattamente che cosa sta succedendo, due per vedere se il suo allenamento sta portando dei risultati. Per esempio, io faccio un test oggi, faccio lo stesso test fra un mese e vado a vedere dei parametri di qualità, come sono cambiati. È cambiata la qualità? È più o meno affaticato l'atleta? Dai dati biomeccanici noi andiamo a stimare il livello di allenamento dell'atleta. Chiaramente più andando a livello superiore, ossia quello che sono le federazioni, avere uno studio di come si allenano gli atleti in Italia, di come si nuota, per esempio, in una determinata nazione, è molto importante perché ci dice come le persone nuotano, che tipo di allenamento fanno, che cosa fanno, mediamente quali sono i loro parametri. Per l'atleta individuale, quindi il recreational, il classico recreational, alla fine... Quello che lo fa per hobby. Esatto, quello che lo fa per hobby, di fatto ha uno strumento che gli permette di tracciare quanto si allena, il numero di vasche che fa, il numero di chilometri che fa, diciamo andare a monitorare e tracciare non la sua attività fisica in generale, ma specificatamente relativamente a questo sport. Quindi capire, ok, io questo mese quante vasche ho fatto, quante ne ho fatte l'anno scorso, sto migliorando, dove sto andando? Quindi una sorta di allenatore virtuale che prima non ha mai avuto, chiaramente. Certo, poi questi dati possono essere condivisi, si possono fare le gare virtuali con magari un mio amico che sta negli Stati Uniti, vediamo chi nuota di più, chi nuota di meno. Senti, io leggendo un sacco di cose in giro per internet, andando a un sacco di fiere in giro per il mondo, vedo moltissimi sensori che tracciano attività fisiche di vario genere. Tu hai citato dei sensori che sono i tipici sensori che troviamo negli smartphone, accelerometro, giroscopio, eccetera. Qual è la differenza quindi tra il vostro sensore e un sensore che mi misura la corsa, oppure ci sono sensori per il tennis, per qualsiasi altro sport? Sì, diciamo che io distingo i sensori in due categorie: quelli che vanno a tracciare le lunghe distanze, quindi quelli basati sul GPS, nuoto, corsa, bicicletta, vela, e quelli invece che tracciano attività indoor o comunque vanno a tracciare i movimenti, quindi sensori inerziali come quelli per esempio degli smartphone, accelerometro, giroscopio e magnetometro. Di fatto la base di partenza di quasi tutti questi activity tracker sono questi sensori inerziali. Ci sono alcuni sensori, quelli che non mirano ad una grandissima precisione, utilizzano meno un campionamento più basso, quindi meno fotografie, raccolgono meno dati, altri rinunciano per esempio al magnetometro perché non gli serve, ma la base di partenza è quella. La grossa differenza è data dal software, quindi dall'algoritmo, da come noi andiamo a prendere tutto questo insieme di dati, mischiarli e andare a tirare fuori le informazioni che servono. Questa è la grandissima differenza, perché l'algoritmo può prendere dei dati estremamente puliti e non capirci niente, oppure può prendere dei dati estremamente sporchi ed essere estremamente selettivo nel determinare gli eventi. Quindi il lavoro più grosso non è fatto dal sensore. Il sensore di fatto mi sta semplicemente raccogliendo dei dati, delle informazioni, ma interpretare quel dato lo fa l'intelligenza del software. Quindi questa è la grossissima differenza fra un dispositivo e un altro. Paradossalmente, se io mi mettessi in testa, invece che il vostro sensore, lo smartphone, con il vostro software il risultato finale potrebbe essere simile. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Tant'è che la primissima validazione, la primissima proof of concept che noi abbiamo fatto del nostro dispositivo ormai 3 anni fa è stata mettendo insieme una board da combattimento, mettendola insieme col cookie gelo, attaccandola alla testa degli atleti e al corpo degli atleti, ma di fatto andando a reperire quello che c'era sul mercato, non fare qualcosa di custom, proprio esattamente come dici te. Qual è la tua opinione sui cosiddetti wearable devices, cioè gli oggetti indossabili che raccolgono i nostri dati? Perché mi sembra che non stiano ottenendo grandissimo successo. Parlo di braccialetti, parlo di orologi. Il vostro prodotto sta andando in una direzione diversa, cioè specifico per uno sport molto particolare, sia per i professionisti sia per i semiprofessionisti. Sì, ci sono due scelte contrapposte che si possono fare. Puntando da subito al mass market, quindi a grossi numeri al primo anno, tipicamente la scelta è quella di fare un wearable device che possa fare tantissime cose, che possa andare a prendere dei parametri estremamente generici. I classici braccialetti che misurano il numero di passi, al più le pulsazioni, il numero di scalini fatti durante un giorno. Questi braccialetti hanno avuto una fortuna molto importante nei primissimi anni. Adesso il mercato si sta quasi saturando, perché ce ne sono veramente di tutti i prezzi, che vanno dai 30 euro regalati nel fustino del detersivo a quelli da 200-300 euro. Quindi il consumatore è un po' disorientato, innanzitutto perché non capisce le differenze fra uno e l'altro, e poi perché utilizzandoli si rende conto che effettivamente dopo qualche mese il sapere quanti passi fa ogni giorno non gli aggiunge molto altro, tant'è che questi braccialetti stanno cambiando il loro modello di business, non più come informazioni per l'utente, quanto più per: io, compagnia assicurativa negli Stati Uniti, ti do il braccialetto, se tu fai almeno 10.000 passi al giorno ti faccio lo sconto sulla polizza assicurativa. Quindi io tengo il braccialetto, non guardo neanche quanti passi sto facendo, ma faccio i passi perché so che magari in aree dove l'assicurazione costa, dove le assicurazioni costano e c'è più povertà, riesco a spuntare quei 50-60 dollari di sconto sull'assicurazione. Noi abbiamo deciso invece di essere estremamente verticali su uno sport. Noi abbiamo identificato, siamo partiti da un bisogno non soddisfatto, quello di monitorare dei dati durante lo sport, di andare a capire come migliorare, quindi un'esigenza. Abbiamo studiato il nostro utilizzatore, abbiamo studiato come le persone nuotavano, che cosa le persone avevano bisogno, e abbiamo costruito il dispositivo attorno all'utente. Quindi siamo stati estremamente verticali ed estremamente centrati sull'esigenza dell'utente. Chiaramente questo, da un punto di vista commerciale, pone un problema all'inizio, ossia il problema è che il tuo mercato chiaramente è ridotto in partenza, ma noi pensiamo che dopo la grossa fatica iniziale di riuscire ad arrivare al prodotto, quindi a capire esattamente le esigenze delle persone, quindi a riuscire a comunicare, a spiegare a queste persone che la loro esigenza è soddisfatta dal nostro dispositivo, questo potrà essere una chiave di successo. Secondo me la chiave di successo deve essere quella di avere una value proposition estremamente centrata, estremamente chiara e identificata su quella che è un'esigenza, non una value proposition molto labile basata su quella che è un qualcosa che sì, può essere interessante, ma va validato, va visto. E questa era la voce di Andrea Rinaldo, fondatore e amministratore delegato di X-Metrics. Molto interessante. Esistono due prodotti, uno per i professionisti, un altro per gli amatori, per chi fa questo sport, per chi nuota per hobby. Molto simili, ma con due prezzi diversi. Ma trovate tutte le informazioni sul sito internet di X-Metrics, scritto così con la X davanti, Metrics, molto facile, molto semplice. Comunque nelle nostre pagine sul nostro sito internet www.radio24.it, nella parte dedicata a 2024, trovate un link, così come nella nostra pagina Facebook. È un mondo interessante, anche perché, ripeto, abbiamo parlato di fatto di Internet of Things, di Internet degli oggetti, perché questo oggetto è connesso con un cavetto oppure col Bluetooth allo smartphone oppure al computer e di fatto poi anche ad Internet. Stiamo parlando di big data, tanti dati che vengono raccolti, di analisi dei dati, insomma di molti degli argomenti di cui si parla 2024 e anche nelle aziende. Insomma, i principi poi di fatto sono sempre molto simili. La difficoltà è riuscire a non solo raccogliere questi dati, ma elaborarli nel modo appropriato. Questo è 2024, versione podcast, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, l'indirizzo di posta elettronica per raggiungermi è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Tra poco parliamo di robot educativi. Che cosa sono, a che cosa servono, come funzionano, quanto costano, che cosa c'è sul mercato. Questo tra poco, 2024, adesso parliamo di un fenomeno che stiamo osservando già da un po' di tempo. C'è una tendenza nel mondo delle aziende che vendono tecnologia, chi vende software, chi vende servizi di telecomunicazioni, consulenza, Allora, visto che il mix di tecnologie disponibili ha creato grande complessità, negli ultimi anni molte di queste aziende hanno creato dei centri per dimostrare, per fare capire cosa si potrebbe fare con la tecnologia, facendo proprio provare con alcuni esempi. Anche PwC, che è una società di consulenza, ha da poco inaugurato un Experience Center. Di questo abbiamo parlato con Gianpietro di Gianvittorio. Le tecnologie che abbiamo all'interno dell'Experience Center sono tra l'Internet of Things, che praticamente è cercare di collegare ogni oggetto a vari altri oggetti. Un'applicazione che si collega ad un carrello della spesa, che si collega al scaffale della spesa all'interno di un supermercato, per esempio. L'intelligenza artificiale, che è l'intelligenza che praticamente rende le cose più intelligenti. Per esempio machine learning nelle fabbriche, riusciamo a mettere un'intelligenza artificiale all'interno delle macchine per renderlo più smart di una persona che lo usa, così riesce in meno tempo a fare il lavoro di una persona normale. Insomma, le tecnologie che si possono toccare in una cosa che si chiama Experience Center, e a proposito di complessità, magari lo si poteva chiamare anche in un modo comprensibile alla maggior parte degli imprenditori che magari non parlano benissimo l'inglese, ma a parte questa raffinatezza, all'interno di un Experience Center si possono appunto provare, come ci diceva Gianpietro di Gianvittorio, cose legate alla Internet of Things, all'intelligenza artificiale, alla robotica, cose che devono essere provate per essere comprese. Ma quali sono le sfide, qual è il problema che si trovano ad affrontare molte delle aziende che oggi stanno subendo la trasformazione digitale, non dominando questa trasformazione? Massimo Feriani, PwC. Le imprese chiaramente stanno sempre di più cercando di crescere rapidamente, di aumentare la loro produttività in un contesto che, come conosciamo tutti, è molto dinamico, con dinamiche competitive e tecnologiche direi mai viste fino ad oggi. Infatti, se parliamo con la maggior parte dei leader delle aziende, ad oggi hanno questa fremono in maniera quasi spasmodica per stare appresso a quelle che sono le innovazioni. Probabilmente la sensazione che hanno è quella di spendere tantissimo tempo per creare una navicella spaziale, e quando finiscono si rendono conto che ci sono dei player nuovi che di fatto si trovano già sulla Luna. Quindi quello che è importante è che per ottenere un vantaggio competitivo ad oggi bisogna un po' cambiare un po' la modalità con cui le aziende tentano di trasformare loro stesse. Fino ad oggi l'hanno fatto attraverso l'acquisizione e integrazione delle tecnologie più recenti, ma questo modello di trasformazione di fatto per l'80-70-80% dei casi è stato un fallimento. Bisogna cambiare paradigma. Il paradigma è quello di combinare in maniera corretta la conoscenza del business e unire alla tecnologia l'esperienza dell'utente. L'esperienza dell'utente diventa la dimensione fondamentale, perché attraverso questa combinazione riusciamo ad aiutare i clienti a reinventare dei business model che siano più innovativi, che riescano a trasformare l'azienda in maniera più veloce, con minori investimenti e quindi con maggiore produttività. Le aziende che crescono di più, che hanno le maggiori performance, sono quelle che hanno un approccio strategico totalmente basato sulla conoscenza non solo di quello che vuole il cliente, ma come lo vuole. Fino ad oggi siamo un po' basati, il cliente noi pensiamo che voglia questo. Molto spesso non è esattamente la verità. Il cliente lo vuole, ma lo vuole in un dato modo. Oggi possiamo capire attraverso una serie anche di analisi sofisticate come vuole dire esattamente il cliente qualcosa. E questo come vuole può sembrare banale, ma va a impattare su tutto quello che l'azienda, quella scheda di organizzazioni, processi e sistemi. L'azienda si deve basare assolutamente su quello che vuole e come vuole il cliente. Queste interviste sono state realizzate da Chiara Piselli. Allora, sicuramente il mondo è sempre più complesso, le aziende si trovano di fronte a un mix di tecnologie che complicano molto le cose, Ovviamente questi punti, questi centri dove si fa esperienza possono essere utili. Le aziende con le quali ci si confronta, siano esse venditrici di software, di TLC, di consulenza, di tutte le altre tecnologie di cui parliamo, sicuramente sono utili e a volte anche obbligati, quasi gli unici interlocutori. Però probabilmente è bene che all'interno di tutte le aziende ci sia un team o anche una persona che studi e cerchi di capire come sta cambiando il mondo per riuscire a dialogare con queste persone, perché poi a volte magari nelle aziende succede che uno dialoga con il fornitore, non comprende per bene quali sono le implicazioni di queste tecnologie e o compra cose sbagliate, perché non sempre tutto quello che viene offerto dal mercato è giusto, oppure non riesce a mettere insieme i pezzi nel modo giusto. È sicuramente un momento complesso, difficile, insomma, quando parliamo ad esempio di cose come Industria 4.0, beh, questa trasformazione genera una complessità così elevata per cui non è facile affrontare il cambiamento. Però è importante, insomma, affidare ad alcune persone all'interno dell'azienda, oppure magari le aziende, se sono piccole, potrebbero anche creare dei team comuni tra aziende per cercare di comprendere questa trasformazione. E ne abbiamo sicuramente bisogno. Dunque, adesso parliamo di educazione, di bambini, e parliamo di robot educativi. Che cosa è disponibile sul mercato? Ne parliamo con Pierluigi Lanzarini, che è fondatore e amministratore delegato di Campus Store. Benvenuto a 2024, Lanzarini. Grazie. Visto che quando parliamo di robot a molti vengono in mente o i robot umanoidi, oppure i robot che vediamo nelle fabbriche, nelle aziende già da tanti anni, in questo caso parliamo di robot educativi. Che cosa sono? Allora, i robot educativi sono quei robot che vengono utilizzati nella didattica, vengono utilizzati a scuola, fin dalla scuola d'infanzia o in ambito universitario o in ambito in parte della ricerca universitaria. Quindi sono dei robot che sono nati come fine unico per fare educazione e didattica. Certo, per far comprendere alcune cose ai bambini o ai ragazzi. Esattamente, i ragazzi possono possono imparare a programmare un robot, quindi fare coding tramite un robot. I robot possono essere educativi di due tipi, o robot che arrivano autocostruiti e vanno solo programmati in vari modi, o robot che vado a costruire. Un esempio sono i Lego Mindstorm, è il più famoso per la costruzione. Sì, poi faremo alcuni esempi. Stiamo parlando di robot che non necessariamente hanno la forma umanoide. No, esattamente. Esistono dei robot umanoidi, ma gran parte dei robot educativi non hanno forme umanoide, anzi hanno forme che richiamano in molti casi il gioco. Quindi sono o delle apine, oppure nel caso di robot che si montano non hanno nessuna forma. Certo, prendono la forma di quello che vado a costruire. Tipo i Lego, sì. Altri prodotti, Meccano, il Make Block. Sì, questo è un settore, visto che tu da 15 anni ti occupi di questo settore, un settore che si è evoluto come? Che immagino che 15 anni fa c'era ben poco. 15 anni fa, quando io portai in Italia il primo robot educativo di Lego, c'era fondamentalmente Lego e non c'era quasi niente. Oggi stanno nascendo tantissime start-up in tutto il mondo, in Asia, negli Stati Uniti, ma anche in Italia e in Europa, e quindi la possibilità di scelta di prodotti è ampissima. Quindi è un mercato che si sta creando. Tu hai citato il coding, che tradotto significa programmazione. Oggi va molto di moda usare questa parola. Anche nella scuola si comincia, in alcune scuole lo fanno già da tempo, anzi ringraziamo i molti maestri o professori che lo fanno spesso anche in modo gratuito, volontariamente, si insegna ai bambini a programmare. Le due cose vanno assieme, e per quale motivo vanno assieme? Perché uno può programmare anche solo con un computer. Sì, uno può programmare solo utilizzando il computer. Il linguaggio forse più utilizzato in questo momento, l'ambiente più utilizzato, è Scratch, che è un software messo a punto dall'MIT di Boston, e non è necessario utilizzare dei robot, ma l'evoluzione naturale è che una volta che io ho fatto un qualcosa a computer, il poter programmare un oggetto che si muove rende la lezione sicuramente molto più interattiva e rende anche la capacità di apprendimento migliore, perché il coding fai solo programmazione, con la robotica devo andare anche a costruire qualcosa, per cui se qualcosa non funziona potrebbe essere il programma scritto in modo corretto, però costruito il robot in modo sbagliato, e quindi c'è tutta la tecnica dell'errore, imparo sbagliando. Certo, comunque sono più coinvolto. Sono assolutamente più coinvolto. Se metto due gruppi di ragazzi, uno fa solo coding e uno coding più robotica, vedrò che i ragazzi sono molto molto più coinvolti. Certo, immaginate appunto scrivere un software e invece dire a un bambino devi fare in modo che questo robot insegua l'altro robot. Esatto. E quindi che tipo di, quando parliamo di questi robot, facciamo un po' di esempi, cioè che tipo di robot ci sono e soprattutto che cosa possono fare? Ci sono alcuni robot che io utilizzo con bambini a partire dalla scuola materna. Uno ad esempio è Cubetto, utilizzo con bambini dai 3 ai 6 anni, i cui inventori hanno detto programming without screen, quindi programmo senza avere un computer, e uso dei piccoli blocchetti di plastica e questi mi permettono, messi in una determinata sequenza, di programmare un robot senza dover utilizzare computer, ma sto facendo del coding utilizzando dei blocchetti di plastica. Che cosa può fare questo robot? Fondamentalmente questi cubetti di plastica, di questi di cui parliamo, fondamentalmente quando faccio della programmazione li faccio andare avanti, a destra, a sinistra, indietro o emettere dei suoni. La grande importanza è che vado a costruire uno storytelling, vado a costruire una storia, per cui dico questo robot deve andare da un punto a un altro punto, ad esempio può andare in banca, costruisco una storia, vado in banca, prendo i soldi, vado al negozio, faccio la spesa la porto a casa dalla nonna. Disegno un percorso nel pavimento e il robot deve seguire il percorso per andare, o un labirinto e devo farlo uscire dal labirinto. Certo, questa diciamo è la base. E di cose del genere ce ne sono altre, varie. Sì, diciamo che questo è il primo come fascia di età, quello forse oggi più diffuso nelle scuole italiane. Si parla di una pinna robotica Bebot che posso programmare o sul robot oppure c'è un'app, e quindi ho la scelta se utilizzarla o meno in modo fisico o tramite software. Cioè com'è fatta questa pinna robotica? Ha proprio la forma di un'ape, ha due ruote, ha quattro tasti sul dorso per le quattro direzioni, più altri due tasti per lo stop e per l'accensione. E io posso far fare un sacco di... Posso fare un sacco di attività costruendo delle storie. Ad esempio posso far fare all'ape 6-4, disegno un percorso con tutti i numeri dallo 0 al 10, quindi andare 6 passi in avanti, poi girarsi, tornare indietro di 4 e il risultato deve dare 2. Il bambino impara la matematica facendo del coding o della robotica. E salendo in complessità sia hardware che software, immagino, perché poi se una macchina è più complessa anche il software deve seguire di conseguenza. Ma poi salendo ci sono altri prodotti che permettono di essere programmati o in Scratch o in Blockly, che è sempre un linguaggio a icone, e oppure anche prossimamente anche con Playground, di Swift Playground di Apple. Quindi ho diversi linguaggi di programmazione, fondamentalmente tutti gratuiti, e con questi riesco a fare anche programmazioni più complesse. Si arriva fino poi arrivare al classico robot Lego, dove è un ambiente di programmazione visuale, dove posso dare addirittura la velocità dei motori, quanti giri possono fare i motori, posso collegare dei sensori e quindi inizio anche a fare dello STEM, oppure programmare direttamente dei robot con Arduino. Prendo una scheda di Arduino che è un microcontrollore, prendo due ruote, due motori e inizio a costruire il robot. È chiaro, più salgo, più sale la complessità di programmazione. Sì, quindi a questo punto siamo entrati in quel mondo dell'autocostruzione. Cioè, esatto. Ci sono robot che io compro, poi parliamo anche di prezzi per capire di cosa stiamo parlando, oppure posso dire prendo Arduino, per chi non lo conosce, è una scheda elettronica programmabile, con questa o con una somma di Arduino, con altre cose che io aggiungo, posso far fare, posso comandare un motore, posso comandare una lampadina, eccetera, eccetera. Certo. Quindi posso costruire addirittura un robot. Io mi posso autocostruire un robot a seconda delle mie esigenze, con costi molto, molto contenuti. Nel caso di Arduino, una scheda di Arduino oggi viene sui 24 euro. Più qualche decina di euro per motori e ruote. È sviluppata questa, perché è più complessa sia per i maestri e i professori, che devono sapere, devono conoscere, e ribadisco ci sono tantissimi professori e maestri in Italia che lo insegnano, si sono appassionati e quindi sono che comprendono quello di cui stiamo parlando, ma molti che non hanno molta idea. Allora, se sono di fronte a magari una macchina semplice, è più facile che anche il professore possa avvicinare i bambini a questo tipo di educazione. Assolutamente sì, nella scuola materna o nella scuola elementare di fatto vengono utilizzati fondamentalmente dei robot già costruiti, dove l'unico lavoro che viene fatto è quello della programmazione. Poi se salgo ad esempio a livello di scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, interviene tutta la parte di costruzione. Quindi certo, può essere con Lego, che è molto più semplice, o con un Arduino, che può essere più complesso. Voi vendete alle scuole, cioè il mondo della robotica educativa è molto legato alle scuole, o uno può andare in negozio e comprarsi e utilizzare questi robot anche a casa? Ma il fenomeno estremamente interessante è questo, che in molte scuole magari non si insegna ancora robotica educativa, però ci sono dei centri tipo i Coder Dojo, i Fab Lab, i Talent Garden, dove vengono fatte delle attività pomeridiane di robotica educativa e poi a seconda dell'età dei bambini vengono utilizzati dei robot diversi. Quindi laddove non ci fosse un centro di questo tipo o la scuola non fosse pronta per fare questo tipo di attività, un gruppo di genitori potrebbe anche fondare un gruppo di questo tipo. Ci sono appunto i Coder Dojo, poi iniziano a esserci anche iniziative private dove viene insegnato coding e robotica al pomeriggio, come io vado a fare un corso di lingua straniera, come vado a fare un'attività sportiva, vado a fare un corso di robotica. Quanto costano questi prodotti, giusto per dare delle idee? Ma possiamo partire da prodotti intorno ai 100 euro per salire a 400-600 euro come costi di prodotti già finiti. Se vado con Arduino ho costi molti più contenuti, però devo prendere i singoli componenti, cioè una scheda di Arduino viene sui 20-24 euro. Tutti questi produttori hanno un'attenzione anche alla parte educativa, giusto? Assolutamente sì, tutti i prodotti che ad esempio noi selezioniamo, importiamo e distribuiamo in Italia, una delle prime cose che controlliamo è questo aspetto, perché di costruttori di robot in giro per il mondo in questo momento ce ne sono centinaia, però i costruttori che si stanno imponendo sul mercato sono quelli che oltre a costruire robot forniscono risorse didattiche, quindi attività per gli insegnanti, attività per gli studenti, e vanno a utilizzare i linguaggi di programmazione che già vengono utilizzati per il coding. Una cosa che non abbiamo citato ed è importante è l'elettronica educativa, che non necessariamente è robotica. Robotica, stiamo parlando di macchine che si muovono, fanno un certo tipo di cose. Ecco, l'elettronica educativa è invece che cosa? L'elettronica educativa è quella parte dell'elettronica che cerca di avvicinare i ragazzi a questa materia. In particolare io potrei prendere dei condensatori, delle resistenze, degli interruttori e collegarli tra di loro utilizzando uno stagnatore, del filo. Non tutti sono in grado di far questo, in particolare i bambini. Allora ci sono dei kit, e uno dei più famosi è Little Bits, messi a punto, che collego dei blocchetti ad esempio magnetici tra di loro, dove è quasi impossibile sbagliare, perché se sono due poli positivi si respingono, e quindi ho il blocchetto dell'interruttore, il blocchetto del motore, il blocchetto dell'accensione, ho il blocchetto della suoneria, il motore, e li collego tra di loro e posso andare a costruire dei circuiti elettrici in maniera estremamente sicura e in pochissimo tempo. Certo, in questo modo i bambini comprendono dei principi importanti e fondamentali che poi magari speriamo in futuro sfocino anche in studi e attività, mestieri, professioni di questo legate insomma alla tecnologia. Abbiamo citato i Lego che sono famosi perché hanno tutta una parte educativa, quindi che posso sfruttare per costruire macchine che si muovono con motori programmabili, soprattutto questo. Altre cose interessanti che ci sono, ad esempio MakeBlock. MakeBlock è una nuova azienda cinese, i fondatori hanno circa 30 anni, hanno messo assieme il concetto di robotica utilizzando dei componenti anche metallici tipo meccano e basandosi su una scheda Arduino. E la programmazione viene fatta in un ambiente tipo Scratch, quindi un ambiente estremamente semplice, può essere utilizzato da bambini dai 6-7 anni. Automaticamente posso convertire questo codice Scratch, che è un codice per bambini, in codice tipo il C, che è un linguaggio di programmazione che viene utilizzato nelle università. La grande loro idea è stata proprio questa, di rendere la programmazione estremamente semplice. Ad esempio, loro puntano molto meno sulla costruzione del robot e puntano molto di più sulla parte di programmazione. Abbiamo citato Cubetto, che è sicuramente una storia molto interessante, molto importante in questo ambito, fondata da due ragazzi italiani a Londra, che sta crescendo molto bene. Possiamo citare altre cose interessanti? Ma sicuramente c'è il B-Bot, BlueBot, che è forse il robot più utilizzato nella scuola materna nei primi anni di elementari. Poi c'è Ozobot, un robot estremamente interessante perché segue la linea del pennarello, per cui disegno dei percorsi col pennarello e segue la linea. Se il pennarello è rosso diventa rosso, se il pennarello è verde diventa verde. Possiamo citare Sphero. Possiamo citare Fisher Technique, la stessa fabbrica dei tasselli da muro, che ha una serie di kit di robotica educativa fino ad arrivare agli umanoidi. Questo è interessante perché ci dice come un'azienda estremamente tradizionale ha avuto un'idea in un campo che non, apparentemente non c'entra nulla. Assolutamente sì, ha sfruttato le stesse macchine che utilizza per fare i tasselli. I tasselli sono composti da due parti, una parte in plastica e una parte in metallo. Ha utilizzato le stesse macchine per produrre dei robot educativi, perché l'ingegner Fisher a un Natale doveva fare il regalo a tutte le ferramenta del mondo, invece di regalare cibo o altro, wuster o birra, decise di regalare qualcosa di tecnico e gli venne l'idea di costruire un robot per i propri clienti. Poi da questa idea, che doveva essere un regalo, è nata una divisione, un'azienda. Pensiamo a tutta la manifattura italiana. Quante aziende potrebbero inventarsi un robot educativo o qualcosa che ha a che fare con l'educazione? Assolutamente sì, perché hanno la tecnologia, hanno le competenze, magari in sinergia con università o con insegnanti per l'aspetto didattico, perché l'altro aspetto estremamente interessante è quello, perché aziende che costruiscono robot ce ne sono tantissime, però non tutte riescono a fare quel salto per creare un prodotto educativo. Il prodotto educativo è composto da software, hardware, contenuti e formazione. Allora, tra poco parliamo di competizioni, perché uno dei risultati di questa attività è anche poi fare delle gare a livello internazionale. Prima un accenno a i robot, invece quelli che noi ci immaginiamo nella nostra mente, almeno molti si immaginano quando sentono la parola robot, gli umanoidi. Allora, questi costano un sacco di soldi, giusto? Diciamo che un umanoide oggi ha un prezzo intorno ai 6.000 euro più IVA per iniziare un buono umanoide. Un umanoide è un qualcosa di estremamente complesso, perché va a simulare completamente il comportamento di un uomo. Ci sono gare di umanoidi, competizioni di calcio tra umanoidi, e devono giocare a calcio con una palla, far gol. È estremamente difficile farli camminare, farli rimanere in piedi e farli saltare anche. Certo, tu mi hai citato prima di iniziare la nostra chiacchierata Nao. Sì. Che forse è l'esempio più interessante? Esatto, Nao è forse oggi l'umanoide più noto in tutto il mondo. Tutti pensano che sia un umanoide creato in Asia, in realtà è un umanoide che è nato a Parigi. Oggi la società è di proprietà cinese e giapponese, ma l'idea nasce in Europa. Cinese o giapponese? Entrambi, strano. Ah, mix. Mix, c'è cioè esatto. SoftBank che è giapponese. È stato raro che i cinesi e i giapponesi vadano così d'accordo. C'è Alibaba, c'è Foxconn e c'è SoftBank, quindi società sia cinesi che giapponesi. Citiamo una competizione, comunque un programma che voi lancerete, che usa Nao. Beh, c'è la Nao Challenge in Italia, una competizione tra scuole superiori, dove noi lanciamo una sfida ogni anno assieme a scuola di robotica. Mettiamo a disposizione 10 robot Nao nel territorio nazionale, dove le scuole possono andarsi ad allenare. Poi c'è una finale nazionale che viene all'Opificio Golinelli a Bologna ai primi di maggio ogni anno. Le scuole che partecipano alla finale si sfideranno tra di loro e la scuola che vince la competizione riceve in omaggio un Nao. Poi cosa ci fanno questo robot umanoide? E con il robot umanoide c'è tutta la parte della programmazione, perché lo posso programmare o con un ambiente proprio che è Choreograph, o con un ambiente libero tipo Snap, oppure con anche ambienti tipo Java o C. Questa è la parte di programmazione. Possono studiare ad esempio la meccanica, perché semplicemente io posso andare a studiare gli arti, come si muovono. Certo, si possono fare tante attività. Abbiamo citato questa che è una competizione, e allora apriamo il capitolo competizioni, perché in giro per il mondo ci sono varie gare per poi vedere, verificare se uno ha programmato bene il robot e è più bravo di un'altra scuola. Come funziona questo? Ce ne sono tantissime, giusto? Ce ne sono tantissime in tutto il mondo. Le più diffuse in Italia sono la RoboCup, che è una competizione aperta in cui tu puoi partecipare con qualsiasi robot autocostruito o robot Lego o Make Block, ma moltissimi partecipano con robot costruiti con Arduino. E ci sono varie categorie, c'è la rescue, il calcio, il dance, la dance, e ci sono varie categorie. C'è una finale nazionale, i vincitori poi vanno a fare le finali europee o le finali mondiali, e i team italiani nel passato sono riusciti a classificarsi molto bene e a vincere anche le finali mondiali. Poi c'è la First Lego League, dove puoi partecipare solo con robot Lego, col Mindstorm. Poi c'è la Now Challenge, dove puoi partecipare solo con il robot umanoide Now. Queste sono quelle presenti in Italia, ce ne sono poi delle altre in giro per il mondo che non sono ancora arrivati in Italia. Però interessante. Cioè, un po' come nelle automobili. Esattamente. C'è la Formula 1, dove ognuno si costruisce la propria macchina. Poi ci sono le monomarca. Poi ci sono le monomarca. La cosa estremamente interessante è che nascono delle attività anche extrascolastiche, che si trovano i ragazzi al pomeriggio per partecipare alla gara. La gara non è solo una competizione pura sul tempo chi ottiene la migliore prestazione, ma ci sono anche dei punti importanti relativi al progetto didattico e al progetto tecnico, e dove ragazzi magari in difficoltà riescono a emergere molto meglio rispetto a scuola. Certo, perché c'è una parte di questa del robotica educativa che è mirata, pensata, destinata ai ragazzi con difficoltà di apprendimento. Ci sono progetti estremamente interessanti anche in Italia dove è stata utilizzata la robotica per ragazzi in difficoltà, non solo difficoltà di tipo di apprendimento, ma anche per recupero scolastico, per cercare di riportare i ragazzi a scuola, per combattere l'abbandono scolastico o per integrazione anche tra ragazzi, perché dovendo lavorare in team, persone che magari in classe non si parlano mai, sono costretti a lavorare assieme. Certo, certo. Se un genitore, dopo aver sentito la nostra chiacchierata, avesse voglia di prendersi un robot di questo genere, si trovano facilmente sul territorio. Voi vendete o vendete solo alle scuole? No, noi vendiamo alle scuole, poi abbiamo un sito, campusstore.it, dove facciamo vendita online, e quindi tutti i prodotti sono acquistabili online. Sono prodotti che molte volte non si trovano nei grandi negozi di elettronica, ma si possono trovare in negozi specializzati, perché è ancora un mercato di nicchia, diciamo, per il grande pubblico. Sì. A proposito di dimensione del mercato, tu hai alcuni numeri che ci dicono qualcosa, se non sulla robotica, sul movimento che c'è attorno alla programmazione, al coding. Sì, la robotica si è appena conclusa la Robot Week ieri, per cui non ci sono ancora i dati del numero di team che hanno partecipato, però la Code Week, quindi la settimana della programmazione, nel 2016 ha avuto in tutto il mondo 22.000 eventi, di cui 12.000 in Italia. Quindi l'Italia è sicuramente uno dei paesi dove viene fatto più coding. L'altro progetto estremamente interessante è un progetto del professor Bogliolo dell'Università di Urbino, dove tramite il Code Mock ha formato circa 13.000 insegnanti con tutta una serie di attività, e questi insegnanti hanno fatto attività per circa 150.000 alunni nell'ultimo anno. Molto bene, io ringrazio Pierluigi Lanzarini per essere venuto nei nostri studi. A presto, buon lavoro. Grazie. E come sempre grazie anche a voi che ci avete ascoltato, grazie ai nostri ascoltatori di 2024. Il nostro indirizzo, il mio indirizzo di posta elettronica, 2024@radio24.it. Ci trovate su Facebook e anche su Twitter. E come sempre grazie per aver ascoltato questa che è la versione podcast del nostro programma, con tutte le nostre interviste in versione integrale. C'è un ascoltatore, devo dire che per adesso c'è stato solo un ascoltatore, che ha detto no, non va bene che voi mettiate le interviste in versione integrale, perché vorrei che facesse una selezione del succo di quello che è stato detto. Capisco il punto di vista, però secondo me il valore aggiunto del podcast è che a volte diciamo tante cose interessanti, allora io preferisco mettergliele tutte. Se ci sono alcune app per ascoltare il podcast che permettono in modo abbastanza facile di andare avanti, magari di 30 secondi, di 15 secondi, allora uno può fare skip velocemente, magari può saltare alcuni pezzi di intervista, oppure appunto andare avanti in un altro modo. bisognerebbe fare due versioni, quella sintetizzata e quella invece prolungata, però poi non si finirebbe più con le versioni, un po' come i gusti del gelato. Invece io sono dell'idea che bisogna, certo, se uno ha la possibilità fa tanti gusti, ma se uno è da solo fa questo e basta. Però se qualcuno ha un'opinione diversa mi scrive e io tengo conto di tutte. Per il momento mi ha scritto una persona, io leggo e rispetto tutte le opinioni, però direi che per il momento continuiamo a mettere tutto nel podcast. Grazie ancora per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana.